gioie rimpianti, amati ed amanti, disturbi mentali che tendo a coprire con sorrisi falsi. Accolgo gli sbagli, non capisco mai gli altri, vedo tutti distanti, ma penso a fare figli e fare carriera. Penso al giorno in cui me ne andrò via di qua. Sento le radici e spiego la vela. Accendo una candela per chi non ne ha. Quella nostalgia, saudade da vita, che non è ancora mia, che non è ancora mia. Senza una direzione, sono il fiore della rosa dei venti. Mi sento una su un milione e dopo poco mi faccio a pezzi. È tutta un'allucinazione. Donati al cielo in cambio di poter fare qualcosa di degno, aggiungere colore al disegno. Ma penso a chi non sa se arriverà sera, penso al giorno in cui la guerra finirà.